tu svolti e prendi il via, e io resto ancora qui. La testa è colpa sua, non si schioda mai da lì. Son vivo e spero che un giorno capirai. Son dentro ad un contesto che non mi si addice mai. Corro e non mi fermo, sogno e non son desto. Spezzo lanci a caso per chi mi aiuterà. Finirà di essere ormai sempre lunedì. Non finirà di esserci quello che siamo noi. Io lo so che in fondo dai, siamo sempre qui. Con i paesaggi e i tropici, solo su Discovery. Mi fermo e a volte penso come possa essere mai felice in ogni senso l'uomo che non ama mai. Son vivo e spero che un giorno riuscirai ad essere più giusto con chi ti ha tolto dai guai. Come non mi fermo, sogno e non son desto. Spezzo lanci a caso per chi mi aiuterà. Ballo nella folla, il mondo no, non crolla. Accendo luci a caso per chi mi seguirà. Finirà, semmai, sempre lunedì. Non finirà di esserci quello che siamo noi. Io lo so che in fondo dai, siamo sempre qui. Con i paesaggi e i tropici, solo su Discovery. Finirà di essere mai sempre lunedì. Non finirà di esserci quello che siamo noi. Io lo so che in fondo dai, siamo sempre qui. Con i paesaggi e i tropici, solo su Discovery. Finirà di essere mai sempre lunedì. Finirà di esserci quello che siamo. Io lo so, in fondo dai, siamo sempre qui. Con i paesaggi e tropici, solo su Discovery. Finirà di essere mai sempre lunedì. Finirà di esserci quello che siamo. Io lo so, in fondo dai, siamo sempre qui. I paesaggi e tropici, solo su Discovery. Yeah, yeah. Solo su Discovery. Yeah, yeah. Finirà di essere mai, finirà di essere mai, finirà di essere mai, sempre lunedì. I paesaggi e i tropici, solo su Discovery.